Don't wanna fulfill on me. Ming, don't be that dirty, though. Moi, si je veux dormir demain, quand je rentre, je vais passer un coup de carte dedans. Avanti che è? Avanti la musica e vai al diavolo. Così, ognuno tira l'acqua al suo mulino, la nomina, questo, quell'altro, nascere di Stato Islamico, e questo è il titolo dello speciale di Radio Radicale in diretta di questa sera. Kabul è nelle mani, come sapete, dei talebani, che ieri sera hanno annunciato la rinascita dell'Emirato Islamico. Gli estremisti sono entrati nel palazzo presidenziale abbandonato da Ashraf Ghani, la capitale è caduta dopo una giornata di Ferragosto convulsa e drammatica, segnando il ritorno dell'Afghanistan nelle mani dei jihadisti. Portavoce talebani continuano a promettere moderazione, ma Kabul è nel caos, le strade sono completamente bloccate per la popolazione in fuga, il punto più delicato dell'aeroporto internazionale, migliaia di persone hanno preso d'assalto, avete visto immagini, video, le piste del tentativo di unirsi ai diplomatici e civili occidentali in fuga con i voli organizzati dalle loro ambasciate. Aggiornamenti, analisi, previsioni, tutto questo in un'ora con grandi ospiti, cominciamo dal direttore di Repubblica e il direttore editoriale del gruppo Geli, Maurizio Molinari, bentornato. Che momento è questo per la comunità internazionale, per l'Occidente, per chi riconosce la democrazia e i diritti dell'individuo come paradigma assoluto? Per chi combatte invece contro tutto questo? Un momento di grandi pericoli. Innanzitutto per gli afghani. Quanto ha detto oggi in una situazione drammatica del Consiglio di sicurezza l'ambasciatore afghano all'ONU, Thank you. c'è qualcuno, K. Ci sentiamo, io devo fare roba. Ciao, ciao, ciao.